per primo il senatore Kessler, presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, questa casa che attualmente ci ospita, poi il sindaco di Trento, architetto Adriano Goio, che porta la maggiore responsabilità ufficiale di questo convegno, in quanto l'iniziativa è del Comune di Trento, unitamente a lui l'assessore provinciale alla cultura, dottor Tarcisio Grandi, che per l'altra parte, cioè per quella relativa alla mostra, porta la responsabilità dell'altra metà di questa iniziativa, ma contemporaneamente personalmente è stato colui che come assessore comunale già quasi 2 anni fa per primo ha avuto l'idea di avviare questa proposta e di stimolare il sottoscritto e qualcun altro, vero, a ciò che si rimboccassero le maniche per la riuscita di questa iniziativa. Io cedo subito la parola alle autorità e poi darò qualche particolare organizzativo per poi cedere la parola al professor Sternat per la prolusione. Grazie, buonasera signore e signori, benvenuti. Quindi non come autorità ma semplicemente come presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura, che ingloba anche questa sede, io porgo il saluto e il benvenuto cordiale a tutti gli studiosi e a tutti gli interessati a questa importante manifestazione culturale, e dico anche che siamo particolarmente lieti che proprio qui nella sala dell'Istituto abbia luogo, e quindi ringrazio sia il Comune e la Provincia, gli organizzatori del convegno, che abbiano scelto questa sede per un convegno sul principe vescovo Hinderbach. I nostri istituti, i trentini, naturalmente conoscono l'Istituto Trentino di Cultura, ma per i nostri ospiti, quelli che sono qui oggi, dirò che l'Istituto Trentino di Cultura è un ente pubblico che raccoglie prima di tutto la Provincia Autonoma di Trento e poi enti pubblici e privati trentini per promuovere attività culturali proprio nel campo storico, nel campo delle scienze religiose e nel campo della tecnologia e della ricerca scientifica in modo particolare. E quindi questa saletta, come vedete, questa sala vede molti, molti convegni. Ma dico, siamo veramente lieti che questo importante convegno abbia e sia stata scelta, come dicevo, questa sede. Io mi complimento con l'amministrazione comunale, con l'assessore provinciale che è qui, e soprattutto un ringraziamento anche come trentino a tutti coloro che hanno lavorato per organizzare il convegno e agli illustri studiosi che adesso cominciano il loro lavoro. Grazie di tutto e auguri sinceri e franchi per il migliore successo di questa iniziativa. Grazie. Anch'io sarò molto breve, spero, e nel portare ai relatori, agli studiosi, a quanti sono qui convenuti per questo importante appuntamento culturale, il saluto dell'amministrazione comunale di Trento, vorrei sottolineare il significato di questa iniziativa, che vuole gettare una nuova luce su un personaggio importante della storia trentina e quindi sull'epoca di cui egli è stato protagonista. Giovanni Hinderbach, principe vescovo degli anni 1456-1486, si colloca su un crinale importante per la storia della città, in quel passaggio dal Medioevo al Rinascimento, che segna qui come altrove una tappa decisiva nell'evoluzione delle forme urbane di Trento e della cultura che le ha sorrette. Ripensare la storia e i singoli episodi che la scandiscono non è quindi solamente operazione celebrativa, risposta a curiosità degli specialisti. Per chi ha responsabilità di governo della città, un convegno come questo è anche occasione per comprendere le matrici storico-culturali della nostra comunità e dunque per affinare le capacità di progettare il suo sviluppo futuro. Il convegno di studio che si apre oggi e la mostra che inaugureremo domani sono i due assi sui quali abbiamo pensato di articolare l'iniziativa attorno a Giovanni Hinderbach. Essa ha potuto avere luogo perché sull'idea iniziale dell'assessore comunale allora alle attività culturali Grandi, come ha già detto sia Monsignor Roger che il Presidente dell'ITC, abbiamo potuto raccogliere il consenso, la collaborazione e l'impegno di studiosi ed esperti che qui voglio ringraziare nuovamente in maniera del tutto convinta. Come voglio ringraziare il personale della Biblioteca Comunale che ha collaborato in maniera assolutamente decisiva a questo convegno. Non posso mancare di ricordare personalmente il professor Roger, il professor Strand, alla cui competenza e al cui entusiasmo si deve il progetto che ha preso forma con l'alta qualificazione con cui si presenta. Si potrà fare in maniera più diretta e circostanziata domani, durante l'inaugurazione della mostra, però anche oggi non posso non fare un cenno al significato che questa iniziativa rappresenta per valorizzare in senso pieno le risorse della nostra biblioteca comunale. Attraverso questa attività essa dà ulteriore testimonianza di essere un'autentica risorsa al servizio della città, degli studiosi, degli esperti, una risorsa culturale e perciò stesso civile e sociale al cui sviluppo l'amministrazione sta guardando con forte impegno anche attraverso i lavori di ristrutturazione della sede e di restauro della sede compresi nel complessivo progetto FIO. Una dimostrazione anche questa della volontà di valorizzare un patrimonio culturale di grande importanza. Rinnovo quindi saluto e ringraziamento a tutti gli illustri ospiti ed esprimo la certezza che queste nostre iniziative rappresenteranno un momento importante nella vicenda culturale sia oggi che per il futuro della nostra città. Grazie. Autorità, illustrissimi studiosi, signore e signori, mi è particolarmente gradito porgere a tutti loro il cordiale saluto in occasione dell'apertura di questo importante, veramente importante convegno che è promosso unitamente dal Comune di Trento e dalla Provincia Autonoma. Ecco, io vorrei dire che veramente mi auguro che la partecipazione della Provincia sia segno del reale, del convinto interesse verso quelle iniziative che si propongono la conoscenza, la valorizzazione del patrimonio nostro storico e culturale, nella precisa consapevolezza che la cultura, nelle sue peraltro molto varie anche espressioni, è fattore qualificante di crescita complessiva, di sviluppo, di progresso civile di una popolazione. E vorrei ricordare che lo stesso Statuto Speciale di Autonomia attribuisce alla Provincia una competenza primaria proprio in questo ambito. Parla infatti lo Statuto di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali di cui la Provincia deve farsi carico. Così io non posso in questo momento non fare riferimento a tutto quanto in questi anni è stato fatto. Molti infatti sono gli appuntamenti che si sono succeduti, che hanno sicuramente accresciuto la conoscenza di epoche, di vicende, di personaggi della nostra storia e penso per esempio in modo particolare al lavoro che è stato fatto negli anni passati attorno a figure di grande rilevanza come Martini, come Chini e penso poi all'appuntamento culturale attorno a Bernardo Clesio. Però mi pare doverosa qui da parte mia fare anche riferimento alle molte istituzioni culturali che in questi anni hanno voluto assicurare un impegno di grande qualità ed hanno effettivamente dato un loro apporto determinante, forse peraltro non opportunamente conosciuto o addirittura non opportunamente apprezzato. E in questo contesto quindi, che è però di fervore vero, a mio modo di vedere, tenendo anche conto che siamo una terra di modeste dimensioni, si inserisce questo convegno che vuole veramente essere momento di studio, perché così era stato a suo tempo pensato e non momento di celebrazione, attorno alla figura appunto del principe vescovo Giovanni Hinderbach. L'attenzione rivolta a questo personaggio trova motivo, come opportunamente ha detto il nostro sindaco, nella sua consistente attività svolta in vari campi, così da emergere nei fatti come una delle figure più rappresentative tra quante hanno retto il Principato Vescovile di Trento. Il convegno costituirà quindi, riteniamo, un approfondimento importante delle conoscenze anzitutto finora acquisite sulla vita, sulla personalità di questo uomo, sulla sua attività di governo ed anche pastorale, sulla sua opera di umanista, sull'influsso che lui esercitò nel campo delle lettere e nel campo delle arti. E aggiungerei, se mi è permesso, che ci attendiamo anche un possibile chiarimento sulla sua posizione, oggetto ancora di contrastanti valutazioni, in ordine al famoso caso del Simone da Trento. Per tutto questo, quindi, questo convegno può essere una preziosa occasione per presentare risultati di studi, di ricerche approfondite fatte in questi anni, di reciproco però anche scambio di informazioni fra gli studiosi, e riteniamo che possa veramente costituire per la comunità trentrina un progresso di conoscenza, forse anche un ripensamento su esperienze del passato e, perché no, porsi veramente come momento di riflessione molto, molto aperto. Ringrazio quindi anch'io, anticipatamente, gli illustri relatori che si succederanno in questi giorni e, a questo proposito, mi piace evidenziare che con l'autorevole coordinamento scientifico di Monsignor Roger si è reso possibile l'apporto di studiosi di fama nazionale e della stessa Mitteleuropa. Ecco, dico questo, oltre che per gratitudine, anche perché io vorrei leggere in questo un fatto in sé significativo, che peraltro si ripete piuttosto spesso in questa terra, di incontro, di scambio culturale, che sicuramente saranno sempre più necessari anche in vista del grande appuntamento europeo. Per competenza poi ricordo che in margine al convegno è stata organizzata al Castello del Buon Consiglio, sempre dalla Biblioteca Municipale, in collaborazione con l'Ufficio Provinciale Beni e Archivi, una mostra di codici e di incunaboli che appartennero al principe vescovo. Il titolo della mostra, Pro Biblioteca Erigenda, che è tratto appunto da una delle numerose postille di Hinderbach sui suoi libri, vuole proprio mettere in risalto l'opera svolta dal principe vescovo attraverso l'acquisto e attraverso il recupero di manoscritti ed opere a stampa per costruire quella che poi il Clesio stesso contribuirà ulteriormente a crescere, la Biblioteca Vescovile. Dalla raccolta libraria dell'Hinderbach, questa mostra sarà aperta appunto domani pomeriggio, dispersa però purtroppo ora in varie biblioteche, non solo trentine, e questa è in me una sorte che è stata riservata anche ad altro patrimonio, viene posta in mostra parte del materiale che è conservato di grande valore presso la Biblioteca Municipale e presso lo stesso Museo Provinciale d'Arte. Ecco, queste due sono alcune istituzioni che però, assieme ad altre, significativamente anche direttamente, la grande istituzione che oggi qui ci ospita, e colgo l'occasione per ringraziare veramente il suo presidente, il senatore Kessler, per la grande disponibilità e il grande interesse verso questi lavori. Dico, tutte queste istituzioni ci auguriamo possano veramente riprendere con grande coraggio il cammino lungo queste strade. Infatti io credo, e mi avvio alla conclusione, che occorre essere veramente consapevoli, forse più consapevoli, del patrimonio, che è un grande patrimonio storico che dobbiamo ancora conoscere, che dobbiamo ancora valorizzare, anche forse proprio per uscire da qualche luogo comune di troppo o da qualche ricostruzione non del tutto inadeguata della nostra storia trentina. Io sono convinto, e lo dicevamo l'altro giorno in un incontro con alcuni operatori culturali, che la nostra storia è sicuramente un frammento significativo, per certi versi originale, per certi versi peculiare, di civiltà europea. Quindi quando chiediamo questo sforzo, lo chiediamo perché sappiamo qual è l'humus nel quale le nostre radici affondano. E permettete poi che io dica che avverto emergente in questa comunità trentina, e lo avverto emergere anche dalle sue più significative istituzioni culturali che hanno contribuito a modificare sostanzialmente lo stesso clima culturale negli anni recenti, una domanda nuova di maggiore conoscenza, di nuovi servizi culturali, di risposte che non siano omologate o di maniera, non episodiche. Una domanda quindi di maggiore rigore, una domanda di volontà di studio vero. Ed allora mi piace veramente cogliere questa circostanza proprio per ringraziare tutte queste persone che in tutti questi anni su questo versante si sono comunque impegnate, sia a livello personale sia a livello delle istituzioni che rappresentano. E voglio dire a loro che con loro vedremo veramente di compiere ulteriori passi in avanti, nella speranza che siano passi veramente significativi. Concludo anch'io augurando a questo convegno il successo che merita nei fatti, e ringrazio indistintamente tutti coloro che hanno dato il loro apporto anche dal punto di vista organizzativo. Grazie e buon lavoro. Ecco, se posso riprendere la parola come coordinatore, devo dire semplicemente che quando oltre un anno fa ho preso i primi approcci, i primi contatti per avere l'adesione attiva a questo convegno, ho avuto un incoraggiamento smisuratamente più grande di quello che modestamente mi attendevo, perché potete tutti vedere, qui abbiamo 23 relatori molto assortiti, anziani e provetti e giovani, trentini molto precisi nella ricerca minuta di singoli argomenti, oppure uomini che hanno una maturità di pensiero europea. Ecco, praticamente tutti hanno aderito fin dal primo momento e tutti si ritrovano oggi a portare la loro relazione. Qualche relatore sta per venire per il giorno e l'ora in cui qui è scritto, però non abbiamo avuto la fatica di supplire o di cercare di integrare altrimenti il programma. Sono in debito di dire quanto questo ha incoraggiato l'iniziativa, non solo soggettivamente, ma anche obiettivamente, perché come loro possono vedere dal programma, qui buona parte, direi gran parte del materiale che viene presentato è un materiale che ha richiesto una riflessione inedita, una ricerca diretta sui documenti, uno studio paziente per vedere se c'era materia per approfondire e trattare questo. E mi permetto di ricordarlo fin dall'inizio, forse su questo faremo qualche riflessione in sede conclusiva. credo che questa necessità di rimpolpare gli argomenti della storia nostra con indagini nuove sia veramente richiesto dalla situazione del momento. Rimpolparlo verificando che le fonti danno materia, una materia che non è così spicciola, regionale, locale, campanilistica nel senso gretto e limitato come talvolta si intende, ma una materia che messa all'esame di chi veramente conosce il mestiere dello storico si rivela estremamente significativa, perché riesce ad esemplificare sul concreto, a portare in una prova precisa situazioni storiche che sono accadute e non riflessioni generiche ed astratte. Ecco, e con questo criterio è andato nascendo questo programma che, come loro possono vedere, si occupa dapprima dell'uomo e dell'ambiente. Ci accorgeremo quante cose non si sapevano sull'uomo e l'attenzione recente ci mette a disposizione l'uomo e l'ambiente. Qui non posso non nominare il relatore di questa sera, che ha anche il compito di questa prolusione, il professor Alfred Sternat, che è un veterano della ricerca sul Hindenburg, sia sul posto, non è la prima volta che è con noi a Trento in questo tipo di studi, sia sull'orbita più vasta dell'ambiente europeo, in particolare dell'ambiente viennese in cui il Hindenburg è cresciuto. Ecco, l'uomo e l'ambiente. Questo occuperà la relazione di questa sera e la giornata di domani. Invece, dopodomani, abbiamo una giornata dedicata tutta alla grossa e spinosa questione del Simone, dell'omicidio rituale e delle complicazioni antiche e recenti che con questo caso storico sono andate sviluppandosi. E qui già fin d'ora sono in obbligo di ricordare il nome del padre Willehard Eckert, che è stato con noi negli anni fatidici in cui insomma, la revisione del caso Simone di Trento e omicidio rituale sì o no veramente era un problema scottante anche per la comunità cristiana locale. Ma comunque la giornata di mercoledì è integralmente dedicata alla riflessione puramente storica, ovviamente qui nessuno di noi ha cause sante in tasca da difendere, vero? Quindi si tratta solo di un approccio storico, vero? Al caso dell'omicidio rituale di questo caso di Simone di Trento, che è stato tanto significativo su tutta la panoramica e la discussione relativa agli omicidi rituali nel tardo Medioevo. Non è un caso solo trentino, tutt'altro. Poi giovedì verrà dedicata al ruolo del Hindenburg come principe di Trento, governo politico, diremo, del Principato di Trento nei suoi capitoli più significativi. Per dedicare poi da ultimo, venerdì mattina, la mezza giornata al ruolo del Hindenburg come pastore di Trento. È il caso, pur trovandoci di fronte a un principe vescovo e a una situazione medievale, di ricordarsi che abbiamo in fondo davanti a noi un ecclesiastico e un pastore. Abbiamo una comunità di chiesa locale che cresce e vive intorno a lui, e forse anche altri saranno d'accordo con me che proprio l'attenzione alla chiesa locale come tale è andata molto languidendo negli ultimi anni e ha estremo bisogno di essere rimpolpata e rivivificata. Ecco, questo così come panoramica generale e come idea che ha condotto quasi dall'interno la preparazione di questo programma. A me non resta che augurare a tutti un buon soggiorno. Noi siamo a disposizione per ogni problema organizzativo che via via potesse presentarsi. Noi, intendo dire, il sottoscritto in buona parte e il dottor Marco Bellabarba, che che è stata la mia mano destra in tutto questo lavoro e che ringrazio doverosamente anche in questa sede. E con noi la segreteria che il Comune ha messo a disposizione anche per tutti gli impegni logistici. Ecco, forse alla fine darò ancora qualche informazione pratica, vero, prima di concludere, ma comunque noi siamo totalmente a disposizione per questo aspetto della cosa.